5F. Ascolta e trasforma. È un bello spettacolo. Sono dei begli spettacoli. È un bello zaino. Sono dei begli zaini. È un bello sport. Sono dei begli sport. È un bello strumento. Sono dei begli strumenti. È un bell'ufficio. Sono dei begli uffici. È un bell'acquisto. Sono dei begli acquisti. È un bell'ospedale. Sono dei begli ospedali. È un bell'esempio. Sono dei begli esempi.